scritto anche in TV, ci siamo messi male, a Milano non si può più uscire fuori e passeggiare, non si può più dire che è una novità, ogni giorno è più triste perché se ti giri intorno oggi non c'è qualche cosa che ti rallegra più, e si sente altro che bestialità, non se ne può più di questa realtà, perché non c'è più serenità in questo mondo che non ha una buona notizia, non c'è una buona notizia, una buona notizia non c'è. Respirare, e se arrivati in questa realtà, forse non si sa né mai si saprà, basta che ora noi siamo qua, non sappiamo se si sopravvivrà, se c'è qualcuno sopra di noi, ci vede ora in difficoltà, perché non può darci serenità, in questo mondo che non ha una buona notizia, non c'è una buona notizia, una buona notizia non c'è. Yeah.